Il pasto nudo. Cibo tra realtà e immaginazione. Di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Io vedo un uomo al bar, beve il caffè. Ha problemi al lavoro, guai a casa, rate, piccoli sogni infranti. Li vede, ne prende uno e lo mangia. In un istante il tempo sembra fermarsi. È un piccolo momento d'estasi. Signori, se siete venuti qui per fare cioccolatini, potete anche andarvene. Qui si fanno piccoli momenti di estasi. Il bello della cioccolata è che tutti vorremmo mangiarla, e il brutto della cioccolata che ci fa tanto male mangiare. Io avevo un sogno di fanciullezza, mangiarmi tanta cioccolata, comperarmi tonnellate di cioccolata. Il mio primo stipendio lo spesi in cioccolata, quella bella, al latte, quei grossi scacconi di cioccolata che uscivano le nocciole. Me ne mangia tanta e mi passò improvvisamente la voglia di cioccolata. La mia voglia di cioccolata era data dal fatto che mi hanno sempre negato la cioccolata. La cioccolata fa venire le bolle, la cioccolata incalorisce, la cioccolata fa male. Mamma, posso prendere la cioccolata? Sì, ma soltanto un pezzetto, l'altra lasciala per domani. E per paradosso ero nato e avevo vissuto la fanciullezza nella città del cioccolato, nella fabbrica del cioccolato per eccellenza, la Perugina. Mi ricordo ancora quando la fabbrica antica della Perugina era vicino alla stazione della mia città, quando cambiava la tramontana, quel vento terribile che flagella la città di Perugia, e arrivava fino alla periferia dove abitavo io, al limitare della campagna, quell'odore intenso di cioccolata. Ricordo che tutti i figli e le figlie dei contadini, era il passaggio dalla agricoltura alla mezzadria, alla gestione autonoma delle famiglie che non più volevano lavorare la terra come fosse una schiavitù, la prima cosa che si faceva era una domanda per entrare alla Perugina. Quindi tutti i ragazzi e ragazze che conoscevo erano stati comunque prima operai, poi funzionari, poi comunque impiegati alla Perugina. E io raccontavo come fosse quella sorta di paradisiaco luogo in cui c'era tutta la cioccolata che uno volesse. Mi raccontavano, dice, ma sai, tu dentro puoi mangiare tutta la cioccolata che vuoi. Puoi passare davanti ai sacchi di Baci Perugina, prenderne manciate e mangiarli. Però il problema è che non puoi mai portarli fuori. Quindi puoi mangiare tutta la cioccolata che vuoi stando dentro. Non so quanto ci fosse leggendario in questo o di reale. Io sono cresciuto anni in questa idea, che si potesse mangiare tutta la cioccolata che si voleva. E poi certo dopo un po' viene un giorno che ti fa schifo, non puoi più sentirla. Diventa qualcosa che è fortemente ributtante. Perché? Perché sei immerso nella cioccolata dalla mattina alla sera. È più o meno quello che mi accadde in quel giorno in cui, già trentenne, al mio primo vero stipendio, lo consumai tutto in cioccolata. Impassò per sempre la voglia di cioccolata. Prego, entrate, dentro fa caldo. Assaggiate. Non avete mai bevuto della cioccolata calda fatta con una ricetta di 2000 anni fa? Grazie, però no. Che cos'è? Che cosa vede, signora, in questo? Come? Secondo lei cosa sembra? Dica la prima cosa che le viene in mente. Una donna su un cavallo selvaggio. Risposta idiota. Non esistono risposte idiote. Il triangolo al pepe è quello che le ci vuole. Una punta di peperoncino per contrastare la dolcezza. Piccante, avventuroso. Giuseppe Neri, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Allora, il meccanismo che sta alla base dell'attrattività del cioccolato è strettamente collegato ai contenuti, al fatto cioè che il cioccolato sia una sostanza che contiene più di 500 componenti chimicamente attive, molte delle quali hanno caratteristiche specificamente efficaci sul sistema nervoso centrale. Il cioccolato è una sostanza capace di produrre all'interno del cervello dei fenomeni assolutamente simili a quelli che si hanno mediante l'assunzione di sostanze che comunemente vengono chiamate stupefacenti o psicotrope, ma non per questo va classificato come una delle droghe di abuso. Molto amaro è il cioccolato che preferisci. E che dovrà attendere per 5 settimane ancora. Quaresima, grazie. Dobbiamo avviarci. Piacere di averla conosciuta, vieni. Piacere mio. Quanto valgono quei cosi al peperoncino? 4,50 la scatola. Può metterci anche un nastro? Mm-hmm. Così posso far finta che è un regalo di mio marito. Senz'altro. Tronchetti grezzi di cacao del Guatemala per risvegliare la passione. Il nostro cervello, nell'arco dell'evoluzione, ha sviluppato dei potenti sistemi che mettono in relazione il premio, la soddisfazione, il piacere che noi proviamo dall'assunzione di certi cibi con la capacità di disporre di questi cibi, e proprio perché il cioccolato va a agire su questi che noi chiamiamo circuiti premianti, cioè sistemi che ci fanno provare piacere, che ha così tanto successo. Ogni volta dico a me stesso che è l'ultima, ma poi io sento una zaffata di cioccolata calda o di quei cosi con la moca. Cucchiaie di cioccolato così semplici, così piccole, così innocenti. Ho pensato, un solo piccolo assaggio non può fare alcun male. Ma ho scoperto che erano riempite di un ricco peccato. Morbido, burroso, ripieno. E si squaglia, che Dio mi perdoni, ti si squaglia lentamente sulla lingua e ti tortura di piacere. Gli appassionati di cioccolato si rendono conto che la struttura, la consistenza, la corposità del cioccolato, quello che gli anglosassoni chiamano texture, è fondamentale perché stimola tutta una serie di recettori, quelli presenti nel cavorale, nella lingua, che a seconda della consistenza del tipo di cioccolato che mangiamo provoca sensazioni diverse. Basta pensare al piacere particolare di una forma di preparato a base di cioccolato e nocciole che ha fatto la fortuna di una industria dalle parti di Alba nel nostro Piemonte e che quindi è spalmabile. Basta pensare all'immagine classica del grande Nanni Moretti col suo vaso grandissimo di Nutella come fonte di piacere, per passare poi all'altro estremo, che è il tipo di cioccolato che noi in Italia chiamiamo tipo modica, cioè quello cristallizzato, assolutamente di consistenza quasi cristallina, che dà dentro la bocca una sensazione totalmente diversa rispetto a quello dello spalmabile. Tutte queste varietà di cioccolato al latte, variamente fondente, variamente farcito e ripieno, sono capaci di partire dal cavo orale, di dare sensazioni tattili di piacere a livello della lingua e del palato, per poi trasmettere con i loro contenuti, cioè con i loro costituenti chimici, dei potenti messaggi di piacere. Che cosa ci vede? Un accidente di niente. Coraggio, è un gioco. Che cosa vede? Vedo una vecchia brontolona troppo stanca per i giochetti. Oh, ho la cosa giusta per lei. La sua cannella sembra rancida. Non è cannella, è un tipo speciale di peperoncino. Peperoncino nella cioccolata calda? Uh-huh. Le darà la carica. Sicura che non ci ha messo del liquore? Qualcosa di meglio. Ha il sapore di... non lo so. Nella storia però dello studio del cioccolato alcuni elementi sono importanti. Per esempio è estremamente interessante il caso di un medico messicano che nella metà del Settecento descrisse una strana epidemia di quella che loro chiamavano una forma di agitazione isteriforme nell'ambito di persone di sesso femminile e soprattutto di monache in alcune parti del Messico. All'epoca l'accesso al cacao, alle fave di cacao e ai prodotti a base di cioccolato era limitato alle classi agiate, e così come se andate a Catania al monastero dei Benedettini vi verrà raccontato che all'epoca i pochi a disporre di quantità di cioccolato di alta qualità in misura importante in quella città erano proprio i Benedettini, non diversamente nel Settecento in Messico queste suore erano tra le poche ad avere accesso alle fave di cacao e alla loro lavorazione, prevalentemente utilizzandolo come bevanda. Per le ricette infami di oggi, chicchi di caffè ricoperti di cioccolato. Servono a fare bella figura offrendoli accanto alla tazzina di caffè. E in realtà è una ricetta che può realizzare chiunque senza nessuna cognizione di cucina. Si comprano delle tavolette di cioccolato e si squagliano a bagnomaria. Si prendono i chicchi di caffè uno ad uno e si intingono nella cioccolata fusa tenendoli con delle pinzette. Usate quelle per le sopracciglia, lavandole prima, o industriatevi come potete con stecchini, mollette e cose simili. L'importante è che non usiate le dita perché la cioccolata è bollente. L'operazione va ripetuta più volte perché i chicchi siano ricoperti di uno strato sufficiente di cioccolata. Ogni volta occorre lasciar condensare la cioccolata appoggiando il chicco sulla carta da forno. Considerato il tempo che occorre per cioccolatare ogni singolo chicco e tenuto conto del fatto che maldestri come siete saranno orribili alla vista, vi conviene comprarli già fatti e simulare che siano frutto della vostra arte pasticcera. Thank you. pasto nudo. Cioccolato fondente, la base del nostro lavoro. Qui lo chiamiamo il nero. Il cacao, uno dei cibi con più significati nella storia umana. Per gli aztechi era la bevanda degli dèi, per i maya moneta, per i nobili francesi la cura del buon umore, per le monache del 600 il peccato. Giuravano di astenersi dai piaceri della carne e dal cioccolato. Stefano Morigi, storico e filosofo della scienza. I maya chiamavano il cioccolato cacao unal, ovvero cibo degli dèi, e da questo loro modo di chiamarlo deriva anche il nome scientifico, Theobroma cacao, il cibo degli dèi. Nella cultura maya il cioccolato era consumato esclusivamente da alcune classi della popolazione, non era diffuso come adesso appunto noi sappiamo esserlo. Lo consumavano i sovrani, i nobili, i guerrieri, e preparavano la bevanda con dell'acqua calda, la chiamavano chacawa, ed era offerta insieme all'incenso come un sacrificio per le divinità, e a volte era addirittura mischiato al sangue dei sacerdoti, quindi chacawa, sangue di sacerdoti, e nella migliore delle ipotesi veniva questo intruglio anche aromatizzato con vaniglia, peperoncino e pepe. Da qui inizia la grande storia che poi, come sappiamo, sulle navi che attraversarono l'Atlantico arrivò in Occidente e cominciò a diffondere questi preziosi semi in popolazioni che ancora non sapevano quello che li avrebbe aspettati. Il principe Pondicherry scrisse una lettera al signor Wonka chiedendogli di andare da lui fino in India per costruirgli un colossale palazzo tutto fatto di cioccolato. Avrà 100 stanze e ogni cosa sarà fatta di cioccolato fondente o al latte. Mantenne la promessa. I mattoni erano di cioccolato e il cemento che li univa era di cioccolato. Anche le pareti e i soffitti erano fatti di cioccolato. E lo erano anche i tappeti, i quadri e i mobili. È perfetto, da ogni punto di vista. Sì, ma non durerà molto. È meglio che lo mangi subito. Oh, sciocchezze! Non mangerò il mio palazzo. Io intendo viverci. Beh, per tutto il Cinquecento possiamo dire che in Europa il consumo di cioccolato non fuoriuscì dai confini spagnoli. Era servito come una bevanda, ma pare che gli ordini monastici spagnoli, come dire, apportarono delle modifiche a quella ricetta a cui facevo riferimento, che vedeva messo insieme il cioccolato al sangue dei sacerdoti. Probabilmente non gradivano metterci del loro, e allora preferirono correggere questa ricetta con vaniglia e zucchero in luogo del pepe e del peperoncino, oltre che ovviamente del sangue. Probabilmente queste variazioni sul tema erano funzionali a smorzarne il gusto e renderlo più appetibile a un palato europeo. Di fatto ebbe molto successo, e pare addirittura che il vescovo Francisco Juan de Zumarraga nel 1590, nella ricetta cosiddetta ufficiale, aggiunse lo zucchero, che non era mai stato introdotto. Evidentemente questo prodotto così gustoso doveva avere successo, e presto sarebbe uscito dai confini spagnoli, e fu l'Italia il primo paese dopo la Spagna a conoscere questa prelibatezza. Oltre a Torino, un altro polo centrale per la diffusione, ma anche per la conoscenza del cioccolato, fu Firenze, e a Firenze si diffuse presto una ricetta molto cara a Cosimo III dei Medici, che era la cioccolata al gelsomino. La ricetta del cioccolato al gelsomino del Granduca di Toscana. Piglia cacao torrefatto, ripulito e stritolato grossamente 10 libbre. Gelsomini freschi sufficienti da mescolar con detto cacao, facendo strato sopra strato in una scatola o altro arnese, e si lasciano 24 ore, poi si levano e si tornano a mettere altrettanti in esso cacao, facendo strato sopra strato come prima. E ogni 24 ore si mettono gelsomini freschi per 10 o 12 volte. Poi piglia zucchero buono, bianco, asciutto, di libre 8, vaniglie perfette di 3 once, cannella fina perfetta da 6 once, ambra grigia e secondo l'arte si fa il cioccolato, avvertendo nel fabbricarlo che la pietra sia poco calda, ma che l'artefice lo lavori, che non passi 4 o 5 libre per massa al più, perché se scaldasse troppo la pietra perderebbe il suo odore. Può incuriosire il fatto che questa particolare cioccolata al gelsomino, che stimolava il palato di Cosimo de' Medici, ma non solo il suo, fu inventata dal grande scienziato Francesco Redi ed è stata definita in qualche senso un vero esperimento di ingegneria botanico-culinaria. E poi pian piano il cioccolato cominciò a diffondersi per tutta l'Europa. Nel 1615 Anna d'Austria, moglie di Luigi XIII, lo introdusse anche in Francia. Nel 1650 arrivò in Inghilterra, si ha notizia che ad Oxford il cioccolato cominciava a venire servito negli stessi locali in cui si serviva il caffè, e nel XVIII secolo era ormai conoscenza e convinzione comune che il cioccolato non solo fosse una bevanda buona per palati golosi, ma fosse addirittura una panacea per ogni male, oltre che una bevanda, diciamo così, ricostituente. Ancora non si era proceduto ad analisi tecniche scientifiche di quella sostanza, ma già si avevano delle conoscenze per pensare che il suo utilizzo, oltre che il diletto dei salotti e di chi poteva permetterselo per solleticare i loro palati, poteva essere utilizzato per uso addirittura medicamentoso. Oggi cosa mi fai? Oggi? Cioccolata al fondente. Speriamo non mi vengano i brufoli. No, anzi, la cioccolata va benissimo alla penna. Per esempio, già nel 1825, nella sua celebre Fisiologia del gusto, il magistrato Brillat Savarin suggeriva l'utilizzo della cioccolata, per esempio, all'uomo impegnato nel lavoro notturno, oppure ai soggetti cosiddetti fiacchi nello spirito, oppure ancora a quelli tormentati da un'idea fissa, perché dal cioccolato avrebbero potuto trarre un qualche beneficio. Ma se andiamo ancora un po' indietro nel tempo, nel secolo precedente, nel 1735, l'abate Pietro Metastasio compone addirittura un testo intitolato La cioccolata a Fille, in cui mette in scena una vera schermaglia erotica, in cui si tenta di sedurre la ritrosa ninfa Fille provando a convincerla a assorbire un po' di cioccolata. Confuso al fine, quel dell'indiche canne, dolce e candido succo, a te sì caro, prodigamente vi s'accoppia. Dubiti o Fille ancor? No, già nel volto leggo il piacer nel tuo consenso. Oh, come subito persuade, sagace il gusto ed eloquente, e sempre quel che l'irrita dolcemente ancora. Più nutre moderato, e il sen ristora. Tratto da Pietro Metastasio, Il cioccolato. A Fille. Sulle proprietà di queste sostanze sono contenute nella cioccolata, per capire quanta verità c'era nelle esperienze, nelle teorizzazioni che perlomeno dal 600 in avanti cominciano a proliferare in Europa, oltre che in certe abitudini come quella del filosofo Voltaire, che amava scrivere sulla schiena, almeno così si racconta, sulla schiena nuda di un amante, quella del momento ovviamente, mentre sorbiva fumanti tazze di cioccolata. Qualcuno di voi ha visto il nuovo negozio in fondo alla piazza? Oh, la cioccolateria, sì. È vergognoso, non trovate? Che impudenza quella donna. Aprire una cioccolateria giusto durante la Quaresima. Una gran sfacciataggine. Mi si stringe il cuore per quella sua povera figlioletta illegittima. Buona giornata. Occorre ricordare che il cioccolato, e in particolare la cioccolata, era presente addirittura all'interno dei conventi. Nel 600 basterebbe leggere i Promessi Sposi e in particolare quelle pagine in cui la madre superiora offre una fumante tazza di cioccolata a quella giovane che poi sarebbe diventata nota nella storia, nel romanzo, come la monaca di Monza, probabilmente per renderle meno sgradevole l'impatto con la severa vita del convento a cui sarebbe stata in qualche modo destinata o addirittura condannata. Ma il rapporto chiesa-cioccolato nel XVII secolo va ben oltre queste consuetudini, diciamo così, golose e gastronomiche, e raggiunge addirittura i vertici del dibattito teologico. Ci si chiedeva infatti in quell'epoca se assunta in forma liquida la cioccolata potesse essere compatibile con il precetto del digiuno. C'era chi sosteneva di sì, c'era chi sosteneva di no, il dibattito era raffinato e acceso finché nel 1662 il cardinal Francesco Maria Brancaccio, che tra l'altro era molto goloso di cioccolata e compose addirittura un'ode in onore della cioccolata, ne ammise ufficialmente la liceità. Come dire, la cioccolata da quel momento non sarebbe stato più peccato, almeno da questo punto di vista, almeno in questi contesti. Il cioccolatte di Ercole Tanari, componimento ricetta del 1786. Oh, quale spuma gravida di vaghe bolle innalzasi dal vortice gialliccio! Oh, qual brilla sul nero labbro nembo rugiadoso! Qual odoroso fumo le nari mie grato titilla!